Oggi vi presento l'arcanetto idraulico. È uno strumento semplice ma molto interessante per capire i principi dell'idraulica e della meccanica. Questo dispositivo è composto da un bulbo di vetro, un tubo verticale e una piccola ruota a palo posta alla base. Il suo funzionamento si basa sull'energia dell'acqua. Quando si riempie il bulbo con dell'acqua, questa scende lungo il tubo e fuoriesce da piccoli ugelli orientati lateralmente, e la spinta dell'acqua in uscita genera una forza di reazione che fa girare la ruota, un po' come accade nelle turbine o nei mulini a reazione. Questo trasforma l'energia potenziale dell'acqua in energia meccanica rotativa. Questi modelli venivano usati nei laboratori scientifici del 700-800 per spiegare il funzionamento dei sistemi idraulici e sono anche all'origine delle moderne turbine. L'arcanetto idraulico non serviva per sollevare pesi come gli arcani tradizionali, ma per dimostrare fisicamente come dell'acqua può produrre movimento e lavoro meccanico.